giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nel primo trimestre 2025 l'industria manifatturiera di Udine mostra segnali di ripresa rispetto al trimestre precedente, con un maggiore utilizzo degli impianti. Restano però in calo i dati annui su produzione e vendite, stabile l'occupazione. Magazzini dismessi di vecchie fabbriche abbandonate, riconvertiti, ora producono 28.000 assali l'anno che vengono montati su 14.000 veicoli all'anno. Abbiamo visitato la SIAP di Maniago, dove in 5 anni i lavoratori sono raddoppiati e sfiorano le 600 unità. Prosegue il convegno della CISL Scuola sul tema Diamo forma al futuro, in corso da ieri al Centro Congressi in Porto Vecchio a Trieste. L'ospite più atteso di oggi è Gino Cecchettin, padre di Giulia, assassinata a novembre del 2023 dal suo ex fidanzato Turetta. Sopralluogo sulla terrazza a mare di Lignano, dove proseguono i lavori di rifacimento della struttura con l'obiettivo di portarla a nuova vita. Partirà a settembre col nuovo anno scolastico, un'indagine condotta dal Burlo Garofalo di Trieste rivolta alle scuole primarie della regione per meglio individuare i disturbi specifici dell'apprendimento, condizione che può interessare fino al 5% degli individui in età scolare. Il parco per gli skateboard del rione di San Giacomo a Trieste, molto frequentato soprattutto in questa stagione, è chiuso per lavori e non riaprirà per tutta l'estate. Scarseggiano le alternative di svago per i ragazzi. Annunciati i vincitori del premio Hemingway 2025, giunto alla 41esima edizione, in scena a Lignano Sabbia d'Oro dal 26 al 28 giugno. Debutto attricesimo per Waterproof, lo spettacolo teatrale che racconta tra comicità e poesia un futuro invaso della plastica e anche adatto ai sordi. Le 12:32 minuti in questo istante, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Beerzi e da Francesca Terranova a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 11 maggio. Nel primo trimestre 2025 l'industria manifatturiera di Udine mostra dei segnali di ripresa, con la produzione al più 1,8%, le vendite al più 2,3% rispetto al trimestre precedente, con un maggiore utilizzo degli impianti. Restano però in calo i dati annui, meno 2,2% la produzione e meno 2,6% le vendite. L'occupazione appare stabile, con buoni segnali che arrivano dai settori carta, chimica e siderurgia. Le imprese restano caute ma ottimiste, 8 su 10 prevedono stabilità, le altre due prevedono invece di aumentare addirittura il fatturato. Pesano ancora le incognite sui dazi e sull'energia, ma il comparto si mostra tutto sommato resiliente. Per crescere, dicono, servono politiche per abbassare il prezzo dell'energia, diminuire la pressione fiscale, legare parte del salario alla produttività o ai risultati, usando strumenti come ad esempio i premi di produzione o il welfare aziendale. Infine, gli industriali della provincia di Udine chiedono di rafforzare le reti infrastrutturali e digitali, strade, ferrovie e banda larga, fondamentali per sostenere la competitività. Magazzini dismessi di vecchie fabbriche abbandonate, riconvertiti, ora producono 28.000 assali l'anno che vengono montati su 14.000 veicoli l'anno. Abbiamo visitato la SIAP di Maniago, dove in 5 anni i lavoratori sono raddoppiati e ora sfiorano le 600 unità. Considerata una zona depressa per molti anni, ora invece il territorio risponde, risponde bene. A dirlo Enrico Carraro, presidente del gruppo Veneto Carraro, leader nei sistemi di trasmissione, che nell'area industriale di Maniago con la SIAP è presente da 37 anni e già nel 2019 ha scelto di scommettere acquisendo fabbriche dismesse, riconvertendole. Dal 2023 ha comprato un grande capannone a 15 km da qui, nella vicina Montereale Valcellina, che conta 35 dipendenti. Complessivamente dunque si è passati da 300 dipendenti nel 2020 ai 548 attuali, praticamente raddoppiati in 5 anni. Enrico Carraro, quindi, quali sono gli obiettivi futuri a questo punto dopo aver investito così tanto in questo territorio? Intanto ci fermiamo un attimo, ci fermiamo contenti del territorio, abbiamo avuto grande soddisfazione perché negli ultimi anni soprattutto abbiamo assunto nuovi dipendenti, abbiamo trovato grande complicità nel territorio, nel far crescere la nostra azienda. Abbiamo parlato di quest'ultimo stabilimento, che è uno stabilimento dismesso, che noi abbiamo recuperato e stiamo riempendo di macchine, quindi sarà nei prossimi anni, vedranno comunque un continuo sviluppo dell'azienda in questo territorio. Dipendenti, lavoratori, spesso anche molto giovani. Soprattutto molto giovani, perché stiamo investendo in nuove tecnologie, con le nuove tecnologie dove magari i giovani sono più predisposti. Oggi abbiamo visto degli stabilimenti metalmeccanici dove comunque la parte elettronica è sempre più preponderante nella gestione dei nostri stabilimenti. E guardate anche l'intelligenza artificiale, in che modo nella metalmeccanica? In un modo, nel mettere fattor comune tutta quella grande mola di dati che le nostre macchine producono, perché abbiamo tutte macchine interconnesse, quindi noi vediamo l'intelligenza artificiale come un momento di gestione di tutto quanto il complesso delle nostre piattaforme industriali. Maniago, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Forte boato all'ABS di Cargnacco, momenti di apprensione ma nessun pericolo per le persone né per gli impianti. L'esplosione ha allarmato i residenti di Cargnacco e Zugliano ieri sera intorno alle 20. Il rumore udito distintamente in diverse zone ha spinto alcuni cittadini ad allertare i vigili del fuoco, mentre la notizia si diffondeva rapidamente sui social. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Udine che hanno escluso situazioni di rischio. I tecnici dell'acciaieria hanno appurato che si è trattato della rapida vaporizzazione dell'acqua venuta a contatto con le scorie di fusione ad alta temperatura. La produzione poi ripresa regolarmente. Prosegue il convegno della CISL Scuola dal titolo Diamo forma al futuro, in corso da ieri al Centro Congressi in Porto Vecchio a Trieste. L'ospite più atteso di oggi è Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane assassinata a novembre del 2023 dal suo ex fidanzato. Cecchettin che sta parlando proprio ora sul tema valore e dignità di ogni persona. A seguire l'intervento di Giovanni Grandi dell'associazione Parole Ostili sulla cura delle parole per avere cura delle persone. La stabilizzazione dei precari e il rinnovo dei contratti 2022-2024 e 2025-2027, l'impegno sugli organici e la partecipazione degli studenti sono alcuni dei temi affrontati nella prosecuzione del dibattito aperto nella prima giornata dei lavori del congresso della CISL Scuola dalla relazione della segretaria generale Ivana Barbacci. Poi la parola è passata alle riflessioni di ospiti come Gino Cecchettin, che sta parlando in questi minuti, e l'economista Leonardo Becchetti. Al centro dell'intervento di quest'ultimo, in dialogo con la docente di analisi della città Elena Granata, l'approccio della scuola a temi quali la partecipazione e l'inverno demografico. Bisogna cominciare a far capire ai ragazzi che la vita non è un gioco a somma zero. Oggi parliamo troppo del risico, delle terre rare, di una torta fissa, e quindi bisogna lottare per avere la fetta più grande. Non è così, l'economia non è così. In economia, quando due si mettono insieme e innovano, la torta cresce, altrimenti non saremmo passati da 2 miliardi a 8 miliardi di persone. Quindi in tutti i campi quello che è fondamentale è l'intelligenza relazionale, la cooperazione, perché uno con uno fa sempre più di due. Questo è anche il segreto dell'Italia, del successo economico e sociale del nostro paese nel tempo. E nella scuola come si può tradurre? Bisogna aiutare i ragazzi ad alzarsi dal divano, a non essere storditi dai beni digitali e a fare delle esperienze, perché non si impara solo perché qualcuno ti dice qualcosa, ma si impara quando tu fai un percorso, un'esperienza, e vedi che quella cosa vale per te. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo al tempo, il cielo è da sereno a poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 24,5 gradi, a Pordenone 26, Udine 27, Gorizia 28 gradi, a Sappada 20,5 gradi, Piancavallo 21, Tarvisio 22,5, Forni di Sopra 23,5 e a Tolmezzo 25 gradi, sul Monte Lussari 16,5, sullo Zoncolano 17,5. A Grado ci sono 25 gradi, a Lignano 26. E queste le previsioni dell'ARPA per il Friuli Venezia Giulia. Oggi su pianure costa cielo sereno, sulla zona montana poco nuvoloso, nel pomeriggio soffieranno venti di brezza, poi verso tarda sera potrà soffiare bora moderata sulla costa e sulle zone orientali. Sopralluogo questa mattina sulla terrazza mare di Lignano, dove proseguono i lavori di rifacimento della struttura iniziati a maggio dell'anno scorso con l'obiettivo di portarla a nuova vita. Procede in anticipo rispetto al cronoprogramma il cantiere della nuova terrazza mare. Siamo a metà dell'opera a Lignano Sabbiadoro e lo visitiamo partendo dalla base, un'area che a settembre tornerà ad essere sommersa e quindi invisibile agli occhi. Qui per quasi un anno, con lavori H24, sono stati ripristinati i piloni e solai in cemento armato corrosi nei decenni dall'acqua di mare. È stata la parte più impattante di tutto il cantiere, 14 milioni di euro, 6 milioni di fondi europei e 8 dalla regione. Oggi, mentre i turisti si divertono in spiaggia a pochi metri, qui è arrivata la gru per iniziare a cambiare il volto anche della terrazza mare a vista. Dopo le bonifiche e le demolizioni, all'esterno creati 1000 metri quadrati in più di passeggiate, con tanto di bar adiacente alla nuova piscina a sfioro. Ci saranno spogliatoi, un nuovo pontile collegherà la spiaggia anche per far tornare a ballare i turisti e non. Il divieto infatti era scattato per mancanza di una seconda via di fuga. Ripristinate le volte a vista della struttura principale a forma di conchiglia. Qui nascerà una sala polivalente per l'intrattenimento e i congressi, con cocktail bar e due ristoranti. Luoghi nuovi e di qualità per attrarre turisti e giovani che chiedono di potersi divertire nelle notti d'estate, ha affermato l'assessore al turismo e alle attività produttive Bini, che ha partecipato al sopralluogo. I lavori, iniziati ad aprile 2024, potrebbero finire prima del 19 luglio 2026. Bini si è poi spostato assieme alla sindaca di Lignano, Laura Giorgi, in Darsena Porto Vecchio, dove è stato speso il primo milione di euro dei 3,5 stanziati dalla regione per la riqualificazione, dopo che questa è subentrata nella gestione diretta della Darsena. Tra i primi interventi, un dragaggio, rifatte le pavimentazioni, la biglietteria, messo in sicurezza l'impianto elettrico e sostituiti i pali di ormeggio inservibili. Lignano Sabbia d'Oro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Partirà a settembre col nuovo anno scolastico un'indagine condotta dal Burlo Garofalo di Trieste rivolta alle scuole primarie della regione per meglio individuare i disturbi specifici dell'apprendimento, una condizione che può interessare fino al 5% degli individui in età scolare. I DSA, disturbi specifici dell'apprendimento, riguardano un ampio ventaglio di condizioni che possono rendere più difficili le fasi della prima scolarizzazione, situazioni da individuare subito per meglio accompagnare la crescita e lo sviluppo neurocognitivo di bambini e ragazzi, dice Isabella Lonciari, psicologa della neuropsichiatria infantile dell'ospedale pediatrico Burlo Garofalo di Trieste. I disturbi specifici di apprendimento hanno una base innata genetica, mentre la difficoltà di apprendimento non è innata e quindi con un esercizio mirato il bambino può migliorare. Faccio degli esempi. La dislessia sicuramente è quella più conosciuta, poi c'è la disgrafia che vuol dire che il tratto grafico è impreciso, la disortografia e questo tipo di patologie possono essere diagnosticate alla fine della classe seconda. Mentre la discalculia, che comprende la difficoltà del calcolo o l'automatizzazione, può essere diagnosticata solo alla fine della terza primaria. Quindi la differenza cruciale è che la difficoltà con un potenziamento didattico migliora. Il disturbo specifico, avendo una base innata, invece permane per tutta la vita. Numerosi però sono gli accessi impropri al servizio per la diagnosi delle DSA del Burlo. Nel 40% dei casi si tratta di semplici difficoltà scolastiche, risolvibili con un po' di pazienza e qualche esercizio in più. Per questo l'ospedale pediatrico Giuliano sta per avviare un'importante indagine medico-statistica, spiega Emanuela Giangreco, responsabile per le indagini di statistica clinica sempre al Burlo Garofalo. Il miglior studio per valutare l'efficacia di un trattamento, nel nostro caso, è un metodo di insegnamento della lettoscrittura. Lo studio parte in classe prima, nell'anno scolastico 25-26, e prosegue in classe seconda. Gli obiettivi che noi ci proponiamo sono di fatto vedere un miglioramento delle competenze di lettoscrittura nei bambini che seguiranno il programma Alfabeto rispetto a quelli che invece seguiranno il gruppo di controllo. Trieste, Lorenzo Garlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Asugi cerca pazienti donne con emicrania cronica o in fase di cronicizzazione. Per prenotare la visita specialistica bisogna chiamare la segreteria del Centro Cefalee di Trieste entro venerdì. Le visite saranno eseguite gratuitamente lunedì 16 giugno in occasione della Giornata Nazionale dell'Emicrania. Le pazienti donne saranno poi prese in carico in via preferenziale al Centro Cefalee negli ambulatori dedicati ai trattamenti di secondo livello con anticorpi monoclonali. Clonali, tossina botulinica o l'ultima frontiera, i farmaci gepanti. Un aiuto in più per le mamme di Pordenone. Fino al 31 dicembre 2025, gestanti e neomamme possono richiedere un contributo economico se il loro ISEE non supera i 9.360 euro. L'intervento, sostenuto da fondi regionali, è rivolto a donne già seguite dai servizi sociali o in attesa di presa in carico. Ogni donna può ricevere fino a un massimo di 4.500 euro. Nel 2024 le beneficiarie di questo bonus sono state 33 per una media di 1.300 euro ricevuti a persona. La domanda si invia via PEC, i moduli sono disponibili sul sito del Comune. L'assessora comunale Cucci intende questa misura come un sostegno alla maternità in un'epoca di grave denatalità. Il parco per gli skateboard del rione di San Giacomo a Trieste, molto frequentato soprattutto in questa stagione, è chiuso per lavori e non riaprirà per tutta l'estate. Scarseggiano le alternative di svago per i ragazzi. Il servizio. Uno spazio pubblico di aggregazione giovanile chiuso per l'estate nel mezzo di uno dei rioni più popolosi di Trieste. È il caso dello skate park di San Giacomo tra via Molino Avento e via dell'Istria. Il comune lo ha chiuso per urgenti lavori di ristrutturazione che dureranno fino a settembre. 200.000 euro stanziati per la messa in sicurezza e soprattutto per l'innalzamento della discussa recinzione per evitare intrusioni notturne. Da quando fa buio, nonostante fosse già presente una più bassa, alcune persone scavalcavano. La nuova recinzione, ben più alta, eviterà le incursioni notturne, diminuirà la possibilità che le strutture vengano vandalizzate e gli schiamazzi fuori orario, anche se va detto che raramente gli utilizzatori del parchetto si fermavano durante la pausa riposo dalle 13 alle 15 o dopo le 21, peraltro in una zona abbastanza distante dalle abitazioni. L'area è frequentata abitualmente anche d'inverno da una sessantina di ragazzi e ragazze con skateboard, pattini e bici BMX. Con le associazioni che gravitano attorno all'impianto, ma anche tramite i genitori, lamentano la chiusura di uno spazio che per tanti adolescenti è una seconda casa aperta a tutti. Chiedono alternative, sognando inoltre un'illuminazione e una copertura almeno parziale. Il comune intanto sta cercando soluzioni temporanee. Ad Altura c'è un altro skate park che purtroppo ha vissuto tempi migliori. Le associazioni sportive potrebbero portare lì le attrezzature mobili. C'è un'ipotesi anche di spostare parte delle attività programmate in Villa Revoltella. A proposito di Altura, è stata affidata la progettazione per rinnovare anche quello spazio. I lavori sono in fase di progettazione esecutiva, 450.000 gli euro messi in preventivo di spesa da parte del comune. I ragazzi intanto però per questo mese sono stati costretti a spostarsi spesso fino a Muggia. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Annunciati poco fa i vincitori del premio Hemingway 2025, giunto alla 41esima edizione, in scena a Lignano Sabbiadoro dal 26 al 28 giugno. Ecco i nomi: Alicia Jiménez Bartlett, scrittrice spagnola premiata per la categoria letteratura, la giornalista Cecilia Sala come testimone del nostro tempo, il premio Nobel per la chimica Venki Ramakrishnan, categoria l'avventura del pensiero, la scrittrice emiliana Felicia Kingsley per Lignano per il futuro e il fotografo Cesare Gerolimetto. La cerimonia si terrà a Lignano sabato 28 giugno alle 20.30 al Cine City. A Gradisca di Sonzo è stato presentato il 29esimo Festival Onde Mediterranee, curato dall'Associazione Euritmica di Udine, che si terrà dal 25 luglio al 3 agosto con eventi, concerti e incontri. Il direttore artistico Giancarlo Vellischig ha evidenziato la doppia natura musicale e letteraria del festival, che nella prima serata vedrà un incontro dibattito sui percorsi di espressione femminile con l'autrice Chiara Tagliaferri. Il giorno dopo, sabato 26 luglio, serata dedicata a Giulio Regeni con il flash mob Onda Gialla, l'incontro con i genitori del giovane ricercatore e un concerto di Nicole Coceancic. Nei giorni successivi, focus sulla drammatica situazione a Gaza, sulle migrazioni, sui centri di detenzione dai CPR alle carceri. Nella sezione musicale, concerti di Oflaga, Disco Pax, la rappresentante di lista, Meg, Anna Castiglia, Poiana Rock e Massimo Coppola. Siamo allo sport calcio. L'Unione Sportiva Triestina ha riconfermato il direttore sportivo Daniele Dell'Icarri con un accordo di durata biennale e con scadenza fissata al 30 giugno 2027. Dopo il suo percorso da calciatore, Dell'Icarri, classe 71, ha iniziato nel 2008 quello dirigenziale, incarico che ha ricoperto nel biennio 2022-2024 a Pescara, prima di approdare proprio in Alabardato nel novembre del 2024. Dell'Icarri dice in merito: il club mi ha mostrato fiducia nel proseguire un percorso che, se da un lato è complicato, dall'altro rappresenta un'ulteriore grande sfida da affrontare. Da parte sua, l'allenatore Tesser ha detto di essere pronto a tornare sulla panchina in caso di chiamata della società. Intanto però è attesa la verifica del Covisoc sulla regolarità della domanda di iscrizione in Serie C e la decisione non è affatto scontata. Passiamo alla pallanuoto, una nuova centroboa per la Pallanuoto Trieste in vista del campionato di Serie A1 femminile 2025-2026. La società giuliana ha ingaggiato con contratto annuale Aurélie Battu, nativa di Limoges, nativa di Limoges, classe 1997, ha giocato nel Bordeaux per poi passare al Mulhouse, riuscendo nel 2023 a qualificarsi alla fase a gironi della Champions League, primo club transalpino a raggiungere questo risultato. Nella stagione attuale si è trasferita in Spagna, nel Mataró, trascinato fino alla semifinale scudetto. Punto fermo della nazionale francese, ha disputato le Olimpiadi di Parigi nel 2024 con tanto di successo storico sul Sette Rosa. Siamo agli spettacoli, inizia Cinebike, il festival di cinema all'aperto da vivere in bicicletta che unisce le proiezioni dei film a pedalate e a camminate nella natura. Si parte alle 19 ad Aquileia da Vini Broili con l'aperitivo con l'autore Sali Scendi, pedalate e contropiedi, lo scrittore udinese Paolo Patui dialoga con il giornalista Nicola Angeli a proposito di salute, discese e fatica. Le giornate della luce presentano alle 21 al cinema Miotto di Spilimbergo la versione restaurata de Il Giovedì di Dino Risi del 1964. Sarà un evento speciale con la presenza di Milena Vukotic, 90 anni. Ne aveva 28 quando interpretava Lidia, una delle sue prime apparizioni sul grande schermo. Con lei questa sera a Spilimbergo Roberto Ciccolini, che nel film di Risi interpretava il giovane Robertino. E ci sarà anche Steve Della Casa, autorevole critico cinematografico e regista. Questa è un'occasione unica per incontrare da vicino una delle icone del cinema italiano in un festival dedicato alla fotografia e al restauro cinematografico. Il film La Luna Sott'acqua di Alessandro Negrini trionfa al Post Cinema Film Festival di Siracusa, vincendo come miglior lungometraggio documentario. Girato interamente in Friuli, a Erto, con i suoi abitanti, racconta la tragedia del Vajont con uno stile poetico e onirico che fonde realtà e sogno. La giuria lo definisce un affresco lirico e visivo, vicino ai linguaggi di Tarkovsky. Il regista torinese dedica il premio agli Ertani, simbolo di resistenza e di memoria collettiva. È il giorno del debutto a tricesimo per Waterproof, lo spettacolo teatrale firmato Drammadilli, che racconta fra comicità e poesia un futuro invaso dalla plastica e senza pesci. Il grande valore aggiunto di questo spettacolo è la sua accessibilità anche per le persone sorde e multilingue. Lo spettacolo inizia alle 21 all'ex caserma Sante Patussi, ci dice di più l'attrice friulana Elena Cleofe Finati. Un tema che tocca molto la nostra compagnia, di conseguenza abbiamo deciso di apporre dei LED wall su ogni lato della struttura che andranno proprio a fungere da sovratitoli per l'intero spettacolo. Diciamo come dei gobbi, per capirci. Esatto, sono dei LED wall proprio che andranno a proiettare proprio tutto il testo. Ci sarà un addetto che manderà avanti proprio le battute degli attori a seconda di quando e cosa dicono, insomma, e appunto in modo tale che così possano anche avere accesso le persone non udenti. Un'idea semplice, efficace, mi viene da dire, potrebbe essere anche la normalità a teatro, no? Perché non è così? Certo, sicuramente anche un investimento essenziale, no? Abbiamo dovuto fare noi per anche semplicemente l'acquisto di questa attrezzatura. La nostra idea è poi anche proprio riuscire a sensibilizzare anche le altre compagnie teatrali, perché purtroppo soprattutto qui in regione non è una cosa così appunto normalizzata, e per anche eventualmente prestare questo materiale e riuscire a far sì che gli spettacoli vengano resi maggiormente accessibili. Il testo sarà solo in italiano? Sarà in italiano e anche in inglese. Poi noi avremo una data in Slovenia e lì invece il testo verrà recitato in inglese e invece i sovratitoli saranno in sloveno. Torna per il terzo anno il programma di eventi estivi organizzati dall'INAF, Osservatorio Astronomico di Trieste. 4 gli appuntamenti con cinema, musica, spettacoli all'aperto e osservazioni osservazioni al telescopio ad accesso gratuito presso la sede osservativa di Basovizza. Si parte questa sera alle 21 con la proiezione del lungometraggio di Pavel Ostrikov dal titolo You Are the Universe, vincitore del premio INAF e Event Horizon al Trieste Science Plus Fiction Festival 2024. La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano in collaborazione con la Cappella Underground. La seconda data in programma è il 21 giugno in occasione del solstizio d'estate. Sarà una giornata dedicata tutta all'osservazione del sole. I traumi emotivi delle generazioni passate si trasmettono e condizionano i discendenti costretti a vivere esperienze ripetitive. Di questo parla il romanzo Ambra Verde di Marina Silvestri, edito dalla All Around Edition di Roma, che sarà presentato alle 17.30 al Circolo della Stampa di Trieste. Conversano con l'autrice, la professoressa di letteratura italiana Cristina Benussi, e Fulvio Senardi, presidente dell'Istituto Giuliano di Storia. Inaugura la mostra dedicata ai ritratti femminili illustrati, si intitola Di tanti volti, allestita a Palazzo Frisacco a Tolmezzo. L'inaugurazione alle 18 al Cinema David. La mostra sarà visitabile fino al 26 di ottobre. Nel parco di Villa Chiozza a Scodovacca, un appuntamento per i più piccoli con la rassegna itinerante Palchi nei parchi a cura del Servizio Foreste della Regione. Alle 17 la scrittrice udinese pluripremiata Chiara Carminati e la pianista Giovanna Pezzetta andranno a caccia di suoni con i bambini. E alle 12.56 minuti si chiude così questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Francesca Terranova e Giorgio Beaz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Prossimo appuntamento con il GR alle ore 15. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.